piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Per fortuna ci sono dei tamburi sotto di me che riescono a riempire gli spazi vuoti che sicuramente lascerò, essendo profondamente ammorbato questa mattina, avendo grandi difficoltà di emissione sonora. E quindi chi mi ascolta non ci farà caso, risaliranno i tamburi e si porteranno via quello che lascia vuoto la mia voce. Sono tamburi questi, non sono tamburi come gli altri, sono in realtà dei vecchi bidoni, dei pezzi, dei tubi di qualche fognatura, barattoli, ma anche pentole, padelle, suonati con dei manici di scopa sui quali sono state attaccate le palline da tennis. Il risultato però è questo. È una maniera singolare che io non avevo mai visto prima, che non conoscevo e che ho conosciuto di persona, perché mi sono trovato in mezzo a chi fabbrica, suona, porta in giro, umanizza questi tamburi, e ho capito cosa sia la banda Rulli Frulli. La banda Rulli Frulli sono dei ragazzi strani che vengono da un posto piccolo e per molti forse non conosciuto dell'Emilia, che un giorno hanno deciso di prendere dei barattoli, di prendere dei fusti, di prendere dei bidoni, di prendere insomma del materiale che viene considerato di risulta da buttare in discarica. Hanno pensato di mettere in mano a persone che altrimenti non avrebbero avuto altra possibilità di farsi sentire al mondo. Esiste una categoria di umanità che il mondo non ascolta, non vede nemmeno, passa, è trasparente, e per farsi sentire deve fare tanto rumore. E quindi i Rulli Frulli hanno messo in mano dei barattoli che fanno tanto rumore a delle persone che altrimenti non sarebbero mai né ascoltate né viste. Io sono andato con i Rulli Frulli in giro un po' per l'Italia. Recentemente mi sono trovato con loro a Matera. Ho detto: ci porti i tuoi amici? Sì, vi porto i miei amici. L'ho incontrati per caso questa mattina alla stazione. Ho detto: venite con me, oggi parliamo di voi. Se no, altrimenti non mi sarebbe mai venuto in mente. I Rulli Frulli nascono da Federico Alberghini, che un giorno, insegnante di batteria, decise di mettersi insieme a Marco Gollinelli, che oggi ho visto sparuti con i loro zainetti alla stazione Termini, e hanno fondato i Rulli Frulli. Federico, che giorno era? Ti ricordi? Allora, era un lunedì del 2010. Era un giorno molto particolare perché io ho creato questo progetto all'interno della scuola di musica Carlo Guglielmo Andreoli dei 9 comuni dell'area nord della provincia, diciamo, della bassa modenese. Tu eri un professore di musica. Sì, sono un insegnante di batteria, che ho sempre fatto lezioni di batteria. Quest'anno è il 16° anno che insegno nella scuola. Esattamente nel 2010, un giorno particolare, ho deciso, oggi partiamo con le prove. Ho chiesto ai miei allievi, che all'epoca erano 7, se volevano partecipare a questa attività, e tutti mi hanno guardato e mi hanno detto: ci stiamo, veniamo con te. All'epoca avevo già 3 ragazzi diversamente abili, lezioni di batteria, e con questi 7 ragazzi siamo partiti a costruire i primi strumenti. Mi ricordo che i primi erano dei bidoni legati alla cintura, e abbiamo creato le prime marching band. Ma la cosa più particolare è che non riuscivo a trovare i secchi, nessuno mi dava i secchi in quel periodo, e i bidoni non c'erano, non sapevo neanche dove andarli a trovare. Adesso lo possiamo dire, dopo tanti anni abbiamo scavalcato la rete della discarica di Finale Emilia per andare a prendere 3 secchi, e da lì siamo partiti con questa avventura molto particolare. Te lo sei inventato te proprio, la strumentazione Rulli Frulli, sono stare sul palco. È impressionante, perché l'emissione sonora, quello che viene fuori, è musica vera a tutti gli effetti. Quello che costruisce questa musica però sono oggetti di risulta che non si vedono, delle rastrelliere con delle pentole, con delle padelle, delle cose che altrimenti sembrerebbero capaci soltanto di far rumore. Come trasformi questo in musica? Allora, io ho avuto la fortuna di avere un insegnante quando ero molto piccolo, che è Luciano Bosi, che è stato il mio insegnante, che mi ha dato, diciamo che mi ha delineato la retta via, quella dei rulli frulli. Io mi ricordo che avevo 10 anni, forse un po' meno, e ho incontrato questa persona che mi ha fatto un assolo sulle pagine gialle con due bacchette. Da quel momento ho capito che la strada della musica, ma la strada anche dei materiali di recupero, era per me importantissima. E poi da lì siamo partiti, diciamo che nel 2010 l'idea proprio di costruire tubofoni costruiti con tubi suonati con racchette da ping pong o cestelli da asciugatrice che diventano delle casse da banda, la magia nasce proprio all'interno del laboratorio. C'è anche lo strumento, si suona con le pianelle, quelle di gomma, infradito. Esatto, allora avevamo perso le racchette da ping pong, un ragazzo dei Rulli Frulli, era agosto, si è tirato via l'infradito, ha suonato, mi ha guardato e mi ha detto adesso sì che suona bene. Allora, invece, intanto dico al pubblico 800 24 00 24, mi piacerebbe avere qualche testimonianza di chi ha pensato di far ascoltare la propria voce battendo forte su un tamburo, battendo su un barattolo, facendosi ascoltare e cercando di arrivare dove la voce non arriva. Non arriva perché? Perché esiste una sorta di sordità selettiva dell'umanità. Ci sono alcune persone che l'umanità non vuole ascoltare, o non vuole vedere, o vuole ricordarsi loro soltanto il giorno delle feste comandate, come, ne so, il 2 aprile per gli autistici. A proposito, mio figlio autistico Tommy, che è insofferente al rumore, che si mette le mani sulle orecchie soltanto se sente uno che alza la voce, o se io in macchina inveisco contro un altro automobilista, suona tranquillamente in mezzo a centinaia di altri ragazzi in un casino amplificato terrificante e non so come faccia. Ma Marco Rullinelli, quanti siete oggi voi Rulli Frulli? A noi Rulli Frulli, buongiorno a tutti innanzitutto, noi Rulli Frulli siamo una settantina ormai che fanno parte della banda che va a fare i concerti. Poi da alcuni anni ad oggi il metodo Rulli Frulli è diventato un laboratorio che noi portiamo in giro itinerante nei vari contesti di gruppo. E in tutto oggi abbiamo 2400 ragazzi che fanno parte di progetto Rulli Frulli in varie parti d'Italia. Ma io ho visto la metodologia, funziona così: si arriva senza niente, in un posto, ci si mette in una stanza, cioè questo è il laboratorio, si riuniscono le persone, si comincia a radunare gli oggetti di risulta, quindi i bidoni, i barattoli, i pezzi di tubatura, le signore porta le pentole, si costruiscono gli strumenti e poi si comincia, esatto, ad andare in giro per la città e farsi sentire, si fa casino. Esatto. Poi c'è il concerto, il grande concerto sul palco, un concerto vero. Poi entrano in gioco anche, non pensiamo che Rulli Frulli sono soltanto chi batte sulle pentole. Ci sono violinisti, cantanti, musicisti di tutti i tipi, sono musicisti anche di alto livello. Vero, vero, vero. Una delle cose principali che ha reso questo progetto magico è che fa una cosa contraria a come funzionano tutti gli altri collettivi. Cioè, quando si entra a far parte di un collettivo nella vita di tutti i giorni, in qualsiasi contesto, sono richiesti dei requisiti. Persino andare a giocare la partita al campetto con gli amici sono richiesti dei requisiti, devi saper dribblare, calciare il pallone. Invece nella banda avere un certificato esatto. Da noi invece è l'esatto opposto, cioè tu arrivi all'interno dei Rulli Frulli e che cosa puoi portare? Ci dici che cosa puoi portare. Quello che puoi portare è quello che tu metti dentro al gruppo ed è quello che sei messo in condizione di fare. All'interno di questo contesto le persone non solo riescono a sviluppare la competenza che loro mettono a disposizione del collettivo e a sviluppare la loro autostima, ma riescono anche a acquisire competenze completamente nuove, in molti casi competenze che non erano previste. Rendi conto, Marco, tu usi il termine collettivo, che è un termine un po' inquinato dall'abuso che ne è stato fatto in politica. Non è in quel senso lì, se no la gente pensa che un collettivo entrano soltanto quelli che una volta erano i compagni, ve ne frega una mazza questa roba. No, assolutamente. Ecco, ci ha portato il collettivo. No, infatti non servono i requisiti, quindi ecco, anche quelli sono requisiti che è non abbiamo bisogno. Una bella mazza proprio esattamente di questa roba qua. Ecco, cerchiamo di capire quali sono le persone, perché a vedere Rulli Frulli sono tutti uguali, hanno delle belle casacche a strisce come quelle dei carcerati, che sono sintomo di libertà, però questa è la mia lettura e non so se avete pensato. Sì. Avete le magliette a strisce voi? Sì. Allora, voi vi fate marinai perché, diciamo, avete il vostro... Diciamo che l'idea subito dopo il terremoto è stato quello di inventarci, siamo passati da marching band, come dicevo prima, a orchestra vera e propria. Dopo il terremoto. Allora l'idea di essere tutti marinai, cioè la vestita da marinaio, è una vestita di essere dentro a un contenitore di una nave e partire per questo viaggio che ci possa portare fuori dal nostro territorio. Dunque diciamo che siamo tutti vestiti da marinai. l'idea della nave c'era piaciuta anche perché lasciava un'idea di staccarsi da un resto del tutto, quindi ci si stacca dalla terraferma, si sale su questa nave e si parte per luoghi solitari, inesplorati, lontani da tutto. Voi siete marinai, ma la mia lettura, ecco, guarda che bello. Il simbolo della libertà per loro è quello che comunemente viene considerata la casacca degli imprigionati. Questi sono talmente liberi che possono anche giocare e scherzare mettendosi le casacche da persone imprigionate. Loro non hanno prigione. Questo è il Mare della Luna, Federico. Sì, esatto. Questo è un disco che abbiamo scritto, è stato uno dei primi dischi che abbiamo scritto proprio in sala prova con i ragazzi. Diciamo che è una delle prime avventure di creazione da parte dei Rulli Frulli di una composizione proprio da brano musicale pop, chiamiamolo così. Ed è molto difficile mettere in sala prove 70 strumenti con materiali di recupero e fare uscire qualcosa come fosse un'orchestra tipo gli Arcade Fire, che è un po' il gruppo di riferimento della banda Rulli Frulli. E questo è stato un disco che ha fatto 35 concerti in giro per l'Italia, è stato un tour molto bello che è quello che ha creato proprio anche un calore all'interno della banda Rulli Frulli insieme ai ragazzi e ai genitori, perché come dicevi tu prima è un comitato di persone suonano che anche si muovono. I genitori, sì, l'ho visto, esatto, c'è il gruppo, dunque... tutti gli Umarell emiliani che vanno lì e suonano anche loro, è chiaro, ma quello deve essere. E questo diciamo che è stato il primo disco veramente molto bello che ha aperto tantissime... Ma mi è venuto in mente, voglio fare un esperimento, voglio chiedere alle persone che ci ascoltano in questo momento, che ci ascoltano e pensano ad avere argomenti, ecco, vorrei che qualcuno di voi proponesse una sua assenza di talento, un suo non talento, cosa fareste voi nei Rulli Frulli, cosa potreste suonare, cosa vi sentireste di saper non fare per suonare nei Rulli Frulli? Guardate che io ho suonato in un concerto, sono una persona negata, totalmente antitetica a ogni idea del ritmo, di armonia, di musica, di sinfonia, sono io. Sono l'allitterazione fatta persona, sono la distonia umana, eppure non lo so, mi hanno messo in mano queste manici di scopa con le palle da tennis, devo guardare Tommy, a un certo punto mi sono messo a suonare alto sul tamburo e mi sono reso conto che le mani andavano a ritmo, non so nemmeno io perché. Come fate a far suonare le persone negate come me? Questa è una domanda. No, non l'ho capito nemmeno io. Penso che sia perché... Io credo che sia perché non poniamo nessuna regola, cioè gli si consegnano le bacchette, si dice suona e basta, e riesce ad avvenire tutto con una naturalezza che ha veramente del magico, perché tra di loro comunque si guardano, i ragazzi si imitano e soprattutto si aiutano. Questo è anche il bello, che non è mai una competizione, è un affrontare un'avventura insieme, una sfida insieme, che è quella di stare su un palcoscenico per fare un'esibizione, che un palcoscenico per chi c'è salito sa che ha un peso abbastanza importante a livello emozionale. Questi, sì, anche perché poi sono concerti veri a tutti gli effetti, non si pensi che si va in giro a suonare i barattoli, cioè c'è un pubblico, c'è una piazza, c'è un'organizzazione, ci sono dei musicisti, poi sentiremo, ci sono anche delle esatto, fasi musicali reali, non è che è gente che in giro e suona i barattoli, si può pensare. Allora, infatti, come diceva Marco giustamente, noi diciamo che già dalla partenza della sala prove cosa facciamo? Facciamo un lavoro molto particolare, poi io mi vedo molto come, diciamo, come direttore davanti che dirige questa orchestra, ma ho in mezzo tante persone che mi aiutano in questa cosa qua, tipo Marco, tipo la Sara, l'altra insegnante della banda Rulli Frulli, Federico Bocchi, eccetera eccetera. Loro mi aiutano perché cosa succede? In automatico riusciamo a percepire che cosa può fare il singolo ragazzo, cioè ci dividiamo a file, dunque c'è la fila dei bidoni, la fila delle latte, la fila delle pentole, e ogni strumento, diciamo ogni fila, fa un tema, fa un ritmo ben preciso, dunque c'è una lavorazione. Adesso sembra che vanno, ma i musicisti di proprio, diciamo, più classici, ci sono dei violinisti, ho visto, sì, ci sì. Sono dei gente che suona il basso, la chitarra, i fiati, c'è di tutto, cioè... Allora stanno aumentando tanto i violinisti, stanno aumentando i fiati, abbiamo 5 chitarre, 2 due bassi, uno che suona il microkorg, questa tastiera molto bella. Diciamo che l'idea comunque dei Rulli Frulli è un'idea moderna, un'idea di un suono, come dicevo prima, molto simile al danzereccio, all'arcade fire, a qualcosa che possa comunque far ballare le piazze. E questo sta succedendo. E l'altra cosa molto bella che capita durante i concerti è che i ragazzi vanno su con davanti 2-3 mila persone, con una flotta di persone davanti che aspettano i Rulli Frulli con un boato incredibile, e loro vanno su con una naturalezza come se andassero a fare le prove il giovedì. Poi... Ma sì, perché diciamo, suonare il bidone ti rende al di sopra di qualsiasi giudizio. Ti senti ingiudicabile, entri in quella zona magica in cui ti senti folle, e al folle nessuno può dire niente. Se ci sono 3.000 persone davanti che vengono a me a ascoltare che suono un bidone, vuol dire che io posso suonare il bidone e guardarli dall'alto in basso senza sentir morirmi. Ci fermiamo soltanto un istante. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta... Una corretta nutrizione è il miglior punto di partenza. Uliveto, acqua della salute, è una fonte di calcio altamente assimilabile. Un aiuto prezioso contro l'osteoporosi per la salute delle mie ossa. Ed è priva di calorie. Bevendo Uliveto faccio un gesto che mi fa stare bene. Parola di Maria Grazia. Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. Alge Collection, la vetrina di Idrocentro. Per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it. Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi. Il successo è degli innovatori, di chi guarda oltre e vede nel cambiamento un'opportunità, di chi supera i confini, gestendo più di 200 punti vendita nel mondo con un unico software HR. Come Paolo Selva, corporate CEO di Boggi Milano. Boggi Milano ha scelto Infiniti Zucchetti per la gestione del personale in tutto il mondo. Perché gli innovatori scelgono Zucchetti. Zucchetti, il software che crea successo. Biennale, grandiosa, completa, è Fiera Agricola 2020. Da mercoledì 29 gennaio a sabato 1 febbraio, tutte le innovazioni in agricoltura, zootecnia, viticoltura e agroenergie a Verona per tracciare le linee del futuro. Aree demo macchinari, mostre zootecniche internazionali e la nuova rassegna nazionale avicoltura. Fiera Agricola a Verona Fiere dal 29 gennaio al 1 febbraio. Biglietti e programma fieragricola.it. Pubblicità. Valorizza i tuoi risparmi con Chebanca. Con conto deposito hai l'1% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata a 6 mesi entro il 29 febbraio 2020. Interessi in anticipo. Fogli informativi su chebanca.it. Chebanca. Gruppo Mediobanca. Melog. Matematiche, cantanti, piratesse, madri e figlie, contro il mondo intero, ad alzare scudi, spade, occhi enormi. 80024, vi ho fatto sentire Arcipelago, è un brano un po' più cantato in cui c'è Cristina Donà che interpreta questa canzone, questo è interpretata anche da delle ragazze di Rulli Frulli, per farvi sentire quello che è il repertorio della banda Rulli Frulli, perché non pensiate che sono soltanto persone che vanno in giro suonando delle pentole, no? Sono veri musicisti, compongono vera musica, fanno veri concerti. La singolarità è che nel loro gruppo, che sono una settantina di musicisti, ce ne stanno mimetizzati e nessuno si accorge quali siano, una ventina, che in realtà sono persone che appartengono secondo il luogo comune a delle categorie diverse di persone, diversamente collocabili nella società. Lì non si vede, sono tutti uguali, tutti battono i tamburi, tutti suonano, tutti cantano. E questa è la straordinaria ragione per cui questa mattina con me Federico Alberghini, che è il direttore dei Rulli Frulli, e Marco Ulinelli, che è il vice direttore, due ragazzi di Finale Emilia, che un giorno, una decina di anni fa, hanno deciso di mettere insieme dei ragazzi senza tener conto di quello che sapessero fare o l'etichetta che avessero addosso, hanno creato una grande band, un grande concerto. Ma vi considerano? Esistete, Federico? Nel senso, siete considerati una band a tutti gli effetti? Siete fatto cose importanti? Cioè, a Roma avete mai suonato? Sì, abbiamo fatto il primo maggio a Roma. Il primo maggio, Poi abbiamo aperto il Circo Massimo con Papa Francesco, che abbiamo suonato anche lì davanti a 90.000 persone, che è stata una roba veramente molto bella. Poi abbiamo fatto il programma a casa Mica, con Mica, che Mica è venuta in sala prove, perché noi abbiamo una sala prove molto particolare che dopo il terremoto, grazie all'associazione manitese di Finale Emilia, che ringrazio di cuore perché è stato veramente un posto che ha fatto partire la banda Rulli Frulli, noi da lì siamo partiti e abbiamo costruito proprio la nostra sala prove, e da lì nasce proprio la magia, che come dicevi tu prima, l'integrazione dei ragazzi o il mimetizzare i ragazzi stessi arriva da un lavoro anche molto importante con il laboratorio di costruzione degli strumenti. Noi partiamo proprio da lì, ancora prima della musica. Noi partiamo dal laboratorio dove ogni ragazzo si deve costruire il proprio strumento. Dunque si mette sopra un tavolo a costruire l'oggetto e ci si aiuta un con l'altro. E automaticamente le differenze da lì compaiono. E successivamente si parte alla parte musicale, che la parte musicale è, diciamo, la chiusura proprio di questo modello, di questa integrazione che noi facciamo. Io ripeto l'invito che avevo fatto al pubblico, può chiamare all'800240024 se volesse, se no può anche ascoltare, non chiamare, non è obbligo. Poi piacerebbe sapere se quello che vi stiamo raccontando, che è una storia di quelle che vale la pena di raccontare, anche perché non sono storie banali. Oggi vedo che i social sono appassionatissimi all'idea che una affascinante pop star ha messo in vendita delle candele al profumo della sua vagina, e tutti si scambiano questa cazzata come se fosse la notizia del giorno. Ma sapete che cosa ci sarà mai? Una candela che sa di fica, ma quale sarà mai il problema? Eppure oggi tutti esaltati dal fatto che questa vende le candele, che poi non sarà manco vero, perché non manca una cosa che poi se ti riempie la casa ti invita a invitare altre persone, non lo so, una cosa legata all'intimità. Beh, oggi vedo tutti appassionati a questo tema. Io vi sto raccontando una cosa che nulla a che fare con questo. Sono dei ragazzi che danno possibilità a persone, potrebbero essere i vostri figli, i vostri parenti, potreste essere voi stessi, che altrimenti sarebbero rinchiusi da qualche parte, che quel vestito a strisce lo avrebbero idealmente addosso perché nessuno dovrebbe vederli o potrebbe vederli, perché il valore sociale di quelle persone sarebbe qualcuno che si incassa una retta dallo Stato per tenerli reclusi. Invece loro li portano a spasso, li fanno suonare, li fanno essere felici. Ecco, se voi aveste qualcosa da suonare o qualcosa da cui è possibile tirar fuori del rumore per farti sentire, ditelo questa mattina, perché siamo con i Rulli Frulli. Senti, tu hai accennato a attività collaterali, perché penso che non è che vi accontentiate soltanto di portare gente a suonare in giro. Alla fine queste persone cresceranno, la vostra band ha un limite d'età, vedo, fino ai 25 anni? Sì, 25-30 anni. 30 anni, poi dopo dovranno fare qualcosa. Non ha, diciamo che la verità è che non ha proprio un limite, nel senso che noi siamo giovani. Ho suonato io, ne ho 65. Noi siamo giovani, cioè 10 anni di attività che è nata la banda Rulli Frulli, dunque non abbiamo un numero ben preciso. È nato questo nuovo progetto all'interno della banda Rulli Frulli, che è un figlio dei Rulli Frulli. È nato un progetto che si chiama Astronave Lab. Astronave Lab è un progetto lavorativo molto importante, perché noi all'interno dei Rulli Frulli abbiamo 10 ragazzi che hanno finito le scuole superiori, che non hanno un'occupazione lavorativa. Noi ci siamo inventati un po' questo modo di lavorare un po' diverso, nel senso che la creazione di oggetti di design molto particolari con materiali di recupero, soprattutto con barche riciclate e trovate spiaggiate in qualche spiaggia particolare. Cioè raccogliete i cadaveri delle barche spiaggiate e ci fate degli oggetti. E ci costruiamo degli strumenti, degli oggetti di design molto belli. Ecco, adesso lo faccio raccontare a Marco Culinelli. Ecco, state lavorando su un problema di cui la politica intera si è riempita la bocca e ha riempito le aule parlamentari per tanti anni, ma di cui oggi assolutamente non è sulla bocca di nessuno. Il problema del futuro delle persone che non hanno autonomia. Nessuno ci pensa, nessuno ne parla. Oggi si parla di tutto, si parla dei rischi, della paura, della sicurezza, dell'invasione, dei presepi che non ci sono più, del fatto che la famiglia va difesa e via dicendo, ma delle persone che nessuno difende, nessuno in questo momento si pone un problema politico. In nessuna campagna elettorale ho sentito parlare del dopo di noi o del problema delle persone che non hanno autonomia. Ecco, voi come lo ponete questo problema? Perché al di là di fare degli oggetti, vale se questo è un lavoro, se questo ha un suo piano economico, se questi ragazzi potranno in qualche maniera supportare la loro vita facendo questo lavoro. C'è questa possibilità? Assolutamente sì. L'idea di Astronave Lab è venuta avanti negli anni perché Rulli Frulli è partita con dei ragazzini che frequentavano la scuola di musica. Andando avanti nel tempo sono passati 10 anni, i ragazzi sono diventati adulti e abbiamo visto queste famiglie che, quando i ragazzi hanno iniziato ad uscire dalle scuole e diventare maggiorenni, erano comunque spaesate di fronte al fatto che questi ragazzi si sentivano dire ovunque che non avrebbero mai potuto avere, a causa delle loro, insomma, patologie, un futuro lavorativo, una collocazione all'interno del tessuto sociale. Beh, sai, ma io conosco bene il problema. Il lavoro di queste persone che non hanno autonomia è far vivere qualcuno sulla retta che lo Stato dà per il loro mantenimento. Nell'idea generale, il lavoro di un disabile, che quando cresce, quando non c'è più la famiglia ci pensa, è la retta, sono tanti soldi, sai, magari averceli, che lo Stato paga chi li mette dentro dei grandi raccoglitori, li tiene lì a sopravvivere, ma più vivono e meglio è per tutti, capito? Questa è la ragione sociale. Invece qual è la proposta che portate voi avanti? Noi ci siamo posti questo problema proprio perché noi viviamo con questi ragazzi e vediamo che non è vero che non sanno fare delle cose, quindi abbiamo discusso per tanto tempo come si può fare, come non si può fare. Poi un bel giorno Federico ha trovato quest'idea geniale nella sua semplicità di creare questo laboratorio bellissimo. Credo che l'idea gli sia venuta guardando il relitto di una nave sulle spiagge genovesi, e abbiamo costituito questo laboratorio dove i ragazzi vengono, hanno un'identità comunque lavorativa, nel senso che loro sanno che la mattina si alzano e vanno a lavorare, arrivano su questo posto e insieme a Giorgia Zucchi, che è la ragazza che porta avanti Astronave Lab e che aiuta questi ragazzi, insieme a Marco Dalpan, che sono due persone davvero eccezionali che è stata una fortuna trovare, costruiscono questi oggetti e li mettono in vendita. Questi oggetti, che sono molto interessanti, sono anche strampalati, sono pezzi unici e sono maschere, soprammobili a forma di barche, pesci strani, abissali, sono oggetti molto molto molto belli anche. Diciamo, voi restituite dignità e salvezza ad ogni derelitto recuperando un relitto. Sì, era insopportabile vedere comunque, cioè, considerati così, questi esseri umani che dimostrano che hanno qualcosa da dare. L'altra cosa che aggiungo è una cosa molto bella, che due ditte del territorio nostro, una è Casone Liquori e l'altra è Cighe Impianti di Finale Miglia, sono due ditte che loro finanziano questo progetto, nel senso che danno un contributo per l'attività che noi stiamo facendo. Dunque anche il pulmino che li porta tutte le mattine i ragazzi, 9, 12, 15, 18 l'orario, e li porta lì. Dunque grazie anche a queste due ditte che ci danno una mano e ci aiutano. Abbiamo Gabriella. Ma Gabriella, se aspetti un istante, faccio la pausa e poi ti sento. Sei in linea? Sì. Un secondo solo, Gabriella, ci sentiamo fra un istante. Nuova Audi Q5 TFSIe, ibrida E4, pura avanguardia, che combina il rispetto del motore elettrico a zero emissioni con la potenza del motore a benzina, fino a raggiungere 367 cavalli. E con Audi Value il valore futuro della tua Audi è già scritto. Scegli oggi Audi Q5 TFSIe. Dopo 3 anni potrai completare l'acquisto, restituirla o sostituirla con un nuovo modello, contando sulla certezza del suo valore futuro. Negli showroom Audi. Ora. Ciò che diamo spesso, dove dorma la luna di giorno. poche volte io la vedo, anzi più spesso la vedo di giorno che di notte. La notte non guardo la luna, le mie notti sono senza luna perché la notte scrivo. Sto parlando con i Rulli Frulli, lo faccio perché li considero dei residui di un mondo che è destinato forse a scomparire nel cinismo generale, nella la gloria di mostrare la propria spietatezza, il proprio sentirsi lontano da ogni sguardo di tenerezza verso il mondo. Lo dice una persona che è mai stato tenero, ha sempre avuto lo stigma di essere un cinico e un crudele verso il mondo. Però i Rulli Frulli sono un esempio di persone che lavorano per conto loro, sono staccate da ogni tipo di politica. Già immagino, sì, so che ci sono elezioni in vista, che loro appartengono a terra che si pronuncerà, ma a loro non gliene frega proprio una mazza né dell'uno né dell'altro partecipante all'attenzione elettorale. Però loro sono un esempio devo prendere tutte le parti politiche devo prendere esempio, persone che si muovono in fondo chiedendo aiuto a privati, dandosi da fare e facendo le cose che danno dei risultati. Sentiamo Gabriella. Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa c'hai da dire? Volevo dare la mia esperienza. Io vivo a Bologna, ho 55 anni, quindi sono abbastanza attempata. Però beh, ancora dai, 55 anni, un pochino gliela puoi ammollare, dai. Cioè, 10 anni meno di me. Ho sempre suonato strumenti, sono disabile, ho sclerosi multipla da tantissimi anni, però ho suonato sempre gli strumenti da autodidatta. Che suonavi? Sì. Cosa suona? Di tutto, ho iniziato col pianoforte, con la chitarra alle medie e l'ultimo verso i 40 anni la fisarmonica. E perché non suoni con Rulli Frulli? Adesso faccio fatica perché ho problemi proprio alle mani, però suono. Insomma, beh, con qualcosa potrei suonare. Cosa può suonare Gabriella? Certo. A livello di Rulli Frulli sono sicuro. Cioè, sentiamo Federico. Federico, fammi allora, subito, cosa potrebbe fare? Intervista. Assolutamente, intervista. Secondo me, che cosa suoni? Tu mi hai detto l'ultima cosa che hai suonato? La fisarmonica. Io potrei comunque ancora accompagnarvi coi bassi della fisarmonica. Esatto, che dunque la fisarmonica si può suonare. Ti serve una che suona i bassi? Sì, perfetta, sì. Una competenza. Sì, va bene, la prendete. Perfetta, la prendiamo. Anche suona solo coi bassi, ora che ti importa? E trovi un'altra e ti fa... Sì. Volevo chiedere Federico? Sì. Ecco, io ho esperienza a Bologna di vari gruppi che hanno suonato. Vi ricordate quando veniva fatta quella marcia annuale con l'Ivan Illich? Popolare di musica? No, adesso non mi ricordo. Beh, parliamo di tempo fa, voi siete molto giovani, siete nati dopo l'evento del terremoto. Noi nel 2010 siamo nati. Sì, vi ho visti a casa amica. Vi ho visti sì, nel programma. Grazie, grazie mille. Grazie. Vabbè, Gabriella, vedi, Gabriella, tu sei la dimostrazione di una persona che comunque sia, anche se nei canoni tradizionali non ci sarebbe posto per te in un'orchestra, nei Rulli Frulli sarebbe comunque posto. Ti metti a suonare la tua fisarmonica nei limiti che la suoi suonare, comunque un suono che sommato agli altri dà il senso all'esistenza dell'orchestra. Grazie Gabriella. Mauro, buongiorno. Mauro? Sì, ci sono. Sì. Io opero con persone con l'Alzheimer e in una casa di riposo e sentendo la trasmissione il fatto che mi ha colpito è l'ambiente ti trasforma, l'ambiente ti può, non dico ammazzare, ti può esaltare o ti può anche rovinare. Questo è ciò che... E allora il pensiero era in una casa di riposo. Ma tu sei come ospite, le frequenti o come visitatore? No. Ho 69 anni. Eh beh, sei lì, c'è un piede dentro. Si avvicini, però non sono ancora ospite, vado lì a fare un po' di caos, ad esempio internet per stare in forma, perché colleghino con i loro figli a casa. Ecco, vado. Ecco, diciamo, tu gli fai un po' di istruzione digitale? Sì. Hai mai pensato di farli muovere e suonare qualcosa, ad esempio? Sì, cioè, ti hai mai pensato di entrare in una casa di riposo e dare agli anziani i tamburi? Allora, diciamo che tanto l'abbiamo fatto. L'avete fatto? Abbiamo portato gli strumenti. Si divertivano? Moltissimo, moltissimo. C'era una vecchietta di 98 anni che ballava addirittura. La ricordo ancora, sì, meravigliosa. Sì. Beh, è bello perché suonare i tamburi, suonare le percussioni senza nessun limite fa scatenare qualcosa di profondo, di panico, di orgiastico quasi. Portare in un ospizio i tamburi e far divertire gli anziani a suonare i tamburi, senza porgli limiti, il silenzio, quella sorta di silenzio tombale che uno pensa che ci debba essere negli ospizi, con la statuina, con i fiori davanti, già pronta a far passare davanti il feretro. Invece suonano, ballano, si divertono. Antonio, buongiorno. Antonio, ciao, buongiorno, sì. Buongiorno. Mi fermo adesso in una piazzola a Crocetta Sud, perché praticamente sono stato folgorato da questa notizia di Federico. Io ho operato per molti, molti anni nel settore dell'organizzazione musicale. Se la signora di prima si sentiva anziana, io ne ho 74, per cui direi sono ben stagionato. E mi farebbe molto piacere mettere a servizio di questi ragazzi o meno ragazzi quella che è stata la mia esperienza musicale. Dimmela velocemente, così capiamo cosa metti nel piatto, se no. Sì. Cosa sai fare? Niente, la mia professionalità nel settore della musica italiana e europea. Ma che sai fare, per capire? So fare l'impresario. Ah, l'impresario. Con termine brutto. Quindi non è che suoni te. Sono un operatore musicale. Ah, un operatore. Quindi cerchi, diciamo, delle persone da cui penso abbiano i loro agenti. Però aiutare coloro, ovviamente non più a scopo di lucro, ecco, lo farei proprio. Vi serve un impresario gratis? Assolutamente ma sì. Ma guarda, noi abbiamo questo indirizzo mail facile facile che è bandarullifrulli@gmail.com e lì ci può contattare chiunque, quandunque, sempre. Vabbè, Roger, abbiamo trovato, guarda, una suonatrice di fisarmonica, però suona soltanto i bassi. Un impresario che non vuole niente, probabilmente ancora ha una rete di piazze estinte a cui potervi andare, e poi il signore va con gli anziani finché sopravvivono, potete andare negli ospizi. Senti, cosa fate invece adesso? Qual è, diciamo, cosa facciamo insieme d'ora in poi? Allora, noi oggi siamo a Roma perché è partito questo bellissimo progetto che si chiama Rulli Ribelli Amatemu. Dunque, da Rulli Frulli Day di quest'estate, questo incontro che abbiamo fatto molto particolare con Matemu, questa scuola di musica qui di Roma, a Cervelli Ribelli con Gianluca Nicoletti, abbiamo fatto questo incontro a tre, e diciamo che l'estate, agosto e settembre, abbiamo partorito un progetto che secondo me è uno dei progetti. Però non diciamo troppo, sennò sembra che vogliamo farci. Esatto. No, assolutamente. Mettiamo insieme Cervelli Ribelli, cervelli, cioè i matti come me, insieme a Rulli Frulli, e vengono i Rulli Ribelli. Fermo, c'è una grande occasione per voi, mi ringrazierete. Emanuele, buongiorno. Sì, buongiorno. Cioè, c'è pochi istanti, Emanuele, cosa metti sul piatto? Allora, io sono l'organizzatore di un festival nazionale di percussioni che si chiama Percuotiamo. Wow. E si tiene una volta all'anno a Modena. E quest'anno sarà il 14 e 15 marzo a Modena. Sì. E mi farebbe piacere poter in qualche modo avere la possibilità di invitare i Rulli Frulli, che peraltro conoscevo già naturalmente come band. Vi metto in contatto, certo, dovevi aspettare di sentirli alla radio, ce l'hai a 50 metri da casa. Comunque va bene, dai, a Modena magari siete i porti, ci fa piacere. Alla prossima, saluto a tutti.